Queste case non è rimasto che qualche brandello di muro, di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto, ma nel cuore nessuna croce manca. Ha una corona di freschi pensieri, splende nell'acqua fiorita. Le montagne si sono ridotte a deboli fiumi e un invadente deserto formicola di impazienze. Anche il sonno turba e anche le statue si turbano. Mentre infiammandosi s'avvede che è nuda, il florido carnato nel mare, fattosi verde bottiglia, non è più madreperla. Quel moto di vergogna delle cose svela per un momento, dando ragione dell'umana malinconia, il consumarsi senza fine di tutto. Tutto si è esteso, si è attenuato, si è confuso. Fischi di treni partiti, ecco, appare, non essendoci testimoni, anche il mio vero viso attività iniziale. Cerco un paese innocente. Carattere, malinconia, lungo di corpo vinto al suo destino. Carattere, notturno, abbandono i corpi a mia anima, presi nel silenzio vasto, che gli occhi non guardano. Abbandono dolce i corpi pesanti d'amaro, labbra prese intorno di cura di labbra lontane, voluta pudere di corpi estinte in voglie inappagabili. Joe.